Qualche somiglianza, e tutto quello che riesci ad ottenere è un'altra anestesia. Anestesia bio, anestesia wireless, anestesia olimpica, anestesia 3D, anestesia 5G. A questo puoi somigliare, a questo somigli, al tuo stesso torpore spacciato per efficienza, alla tua indulgenza, al tuo pragmatismo spacciato per buon senso. È qui che devi vivere! Tanto vale tracciare una riga e imparare le regole. Il giorno della festa sarà un giorno come gli altri. Nella sala da ballo non distinguerai il tuo vicino e danzerete insieme nelle luci colorate. Le vostre pupille galleggeranno al ritmo nel buio. Fuori della sala non ci sarà nulla, nessuno che ti aspetti. Sei stato promosso da turista per la vita a produttore di immondizia nel volgere di uno sguardo. Creare, selezionare, dividere, riciclare immondizia, sciacquarla accuratamente, nettarla, rimuovere le impurità che ne comprometterebbero la struttura e il riuso, ottimizzare il contegno, minimizzare gli inconvenienti, riprodurre diligentemente i punti di partenza. Focalizzarsi su quelli. I punti di partenza aiuta a restringere i punti di arrivo. Restringere appunto, contenere i rischi, gli imprevisti, contenere gli inconvenienti, contenere, fare tutto perché si deve dilatare l'emergenza. Urgere, scambiare l'opzione per necessità, imparare a pronunciare bene la parola improrogabilità. Ripeti con me, improrogabilità. Bravo, benvenuto. Inizia, iscriviti, accedi, esplora, ti piace? Guarda, segui, scopri, accetta, scarica, condividi, promuovi, inserisci, allega, accetta, commenta, pubblica, mostra tutto. Il tuo stato, il mio stato, il loro stato, copia e incolla, visualizza, aggiungi, inoltre, invita, ritorna, installa, invia, ricevi, cancella, aggiorna, sposta, trasferisci, ottieni, scrivi, connetti, raggiungi, rispondi, torna su, diventa, approfitta, imposta, configura, aggiorna. Attendi. E eccoci! Ehi là! Spumeggiante con i microfoni a palla! Buonasera! Qualche problema tecnico. Ciao a tutte radioascoltatrici e radioascoltatori, siamo sempre su Radio Contado! E l'abbiamo sfangata, è primavera! È primavera, anche se con un po' di ghiaccio, qualcuno aveva paura un po' delle gelate di questi giorni, tipo il nostro saggio contadino Pandolfini, che tremava ieri nell'attesa della gelata di stamattina, ma non credo sia profondamente arrivata. Comunque, ma ha fatto danni bene. Stamattina alle 6 la macchina era un po' brinata, però non di quelle strinate hardcore. Bene, ma noi siamo pronti ai danni, sappiamo anche che c'è qualcuno che ha comprato addirittura dei macchinari anticongelamento per le piante, ma noi non sappiamo e ci rifiutiamo di sapere se no, e come davvero funzioneranno. Io questa non la so, vi prego, ditemi. No, sono news. Grandi news in questa epoca del secco e delle gelate. Il bue e l'asinello a scongelare le piante la mattina. Assolutamente, forse un gregge di cavalli che alitano sugli alberi da frutto, delle giraffe per quelli più alti, non lo so, chi lo sa, potrebbe essere interessante. Ma veniamo a noi, chi c'è oggi in regia? Sono tornata dopo tantissimo tempo, la dama qua per voi. È tornato anche il nostro buon Palmiro che fa il silente, ma ciao, c'è. C'è in forma smagliante, ha sistemato in un nanosecondo una regia che era messa veramente malissimo. Da mettersi le mani nei capelli. Sto ancora facendo la prova microfono. E quindi vi chiediamo scusa se non sentite esattamente benissimo tutto quello che noi vi vogliamo comunicare oggi, ma portate pazienza. Come sempre sapete che Radio Contado non spicca per la preparazione tecnologica come d'audio di prima. E poi abbiamo con noi ciao ragazze, ci sono ancora io, Clio. Evviva, evviva, viva, una grandissima formazione. Ringraziamo Caterpillar che ci ha mandato un contributo preziosissimo, perché noi vogliamo puntare a tutto quello che lui dice, alla tecnologia, al perfezionamento, si vede, si sente da ogni nostra puntata. Vogliamo imparare le regole? Bah, o forse sovvertirle? Vogliamo mettere in atto forse solo delle strategie di sopravvivenza per resistere a tutto ciò che la tecnologia ci impone? E a proposito di questo, possiamo già, beh, a proposito di tecnologia, intanto se ci volete scrivere o contattare lo sapete benissimo ormai, ma non ve lo ricordiamo, che ci potete scrivere come numerose mail fioccano sempre settimanalmente a radiocontado@insibera.net, ascoltarci su www.radiowombat.net nella sezione podcast, ogni volta che volete andate su Radio Contado e ascoltate i nostri migliori podcast, oppure ascoltarci in diretta un mercoledì sì e uno no, perché sì, la novità di questo giro è che torniamo al raddoppio, quindi ad aprile ci saremo ben due volte per voi, visto che ci avete mandato così tante mail di sollecito, fatevi ascoltare di più. No, noi visto che d'inverno non avevamo tempo, adesso è primavera invece... Che non si corre mai nei campi, non c'è niente da fare, siamo aprile dolce dormire, abbiamo deciso di mettere anche la seconda puntata. Giusto Palmi, facci sentire la tua sfavente voce. E scusate, mi sono perso un attimo perché stavo controllando la regia, perché non riesco veramente a equilibrare i volumi. Comunque, guarda le farfalline sullo schermo in realtà. Sì, sì, sì, infatti penso che mi distrarrò tutta la puntata. Va bene, allora penso che sia il momento di preannunciare i nostri Ale Nostro, abbiamo una puntata ricchissima di contenuti, ma bellissimi e innovativi. Innanzitutto finalmente ritorneremo a parlare di Genuino Clandestino, perché c'è pronta per noi l'Intergalattica incontra tra Bologna e Ferrara, ma i dettagli ve li diamo più tardi. Poi abbiamo delle bellissime rubriche, una che iniziamo proprio oggi, vero Takeshi? Ci vuoi dire qualcosa? Per poi passare alle lotte nell'orto quotidiane che viviamo qua in Toscana, che anche nell'orto ormai si sa è una gran lotta contro il ghiaccio, contro i parassiti, contro il freddo, contro il secco, ma noi siamo pronti a lottare, vero Clio, cosa ne pensi? No, io penso che sono ben lontana in questo momento dal lottare piegata a 90 su un orto, però porto solidarietà. E noi ne siamo felici, ne siamo molto felici. Poi avremo una bellissima rubrica inviataci dalla nostra mitica Pam sul cinema. Cinema ovviamente sempre nel tema nostro, però non vi voglio preannunciare nient'altro. E poi avremo forse un collegamento, se no comunque parleremo del movimento dei sollevamenti terra. E già stiamo capendo che c'è un microfono che non funziona, quindi speriamo che quello che dice Takeshi lo sentiate. Prova a parlare. Proviamo, mi sentite? No, effettivamente lo dà molto basso, probabilmente solo di rimbalzo dai nostri microfoni. Riprova. Proviamo, mi sentite? Forse ti devi avvicinare a quello di Clio. Va bene, scusateci se facciamo queste prove così seduta stante, e direi che a questo punto mandiamo la prima canzone e ci riascoltiamo dopo, ritroviamo dopo all'ascolto, perché vi parleremo un po' dell'intergalattico di Genuino Clandestino. Galattica Genuino Clandestino, 14, 15, 16 aprile 2023, nuova casa del popolo di Ponticelli, Malabergo, Bologna, giusto per... Siamo esattamente fra, a metà strada, io guardavo sulla cartina, fra Bologna e Ferrara. Posto nuovo, posto che ci accoglierà rigorosamente in tenda, quindi speriamo che il clima migliori un attimo. Una bella pioggia come tutti gli intergalattici, sì. Speriamo di schivarcela. Speriamo, noi siamo sempre qua che vogliamo la pioggia, ma non in determinati momenti. E quando arriva la pioggia di solito? Quando non si vuole, però ci possiamo portare il guell'asinello di prima per scaldarsi. E per asciugarci? Sempre i cavalli. I cavalli, va bella. Abbiamo già delle strategie di sopravvivenza, e di strategie di sopravvivenza speriamo anche di parlare in questa intergalattica di Genuino Clandestino. C'è un programma ricchissimo, densissimo, ma veramente veramente denso, partendo dall'accoglienza ovviamente il venerdì pomeriggio alle 14 alla nuova casa del popolo di Ponticelli, per poi subito partire con un incontro di convergenza contadina, agroecologica e solidale, un incontro allargato tra realtà che si occupano di sovranità alimentare. Quindi ci siamo detti, quest'anno ampliamo il cerchio, noi invitiamo sempre chiunque voglia partecipare all'Intergalattica di Giugno Clandestino, quest'anno abbiamo proprio fissato un tavolo anche con realtà come Ari, la Via Campesina e altre che insomma di ecologia e contadinanza hanno voglia di parlare, discutere, viste insomma il flop di tutte le riforme millantate agricole che finora non ci sono state, soprattutto contadine. La sera poi decisamente molto più scialla, laboratorio musicale, cena condivisa, concerto di Fragole e Tempesta, vedremo che cosa ci propongono i nostri amici bolognesi, per poi arrivare organizzatissimi, impellenti, rapidissimi, con tutta questa tecnologia raccontata anche da Caterpillar il sabato 15 aprile con Spazio Relazioni. Questa è una cosa nuova che ci propongono i nostri amici di Campi Aperti. Spazio Relazioni, fare in comune un sistema alimentare, il percorso politico verso la sovranità alimentare per promuovere un'economia autodeterminata e socio-ecologica. E poi dalle 10 in poi partono tavoli tecnici, apicoltura, frutticoltura, erboristeria, canapa, panificazione, orticoltura, comunicazione, coltivare biodiversità, chi più ne ha più ne metta. Ma c'è anche chi non volesse partecipare a un tavolo tecnico, un tavolo un pochino forse più tematico, comunicazione e decostruzione delle reti contadine. Riprendiamo il discorso, quindi vediamo a che punto queste nostre reti contadine sono arrivate, come costruire spazi e modalità realmente depatriarcali del nostro vivere, quali buone pratiche esistono all'interno delle nostre reti, che bisogno abbiamo e dove vogliamo andare. E questo è solo il sabato mattina, per poi pranzo ovviamente, perché il pranzo non viene negato a nessuno, riprendere in bomba alle 15 con dei tavoli più tematici, fra cui GC in prima linea, esperienze ai mercati, su piazza, strade, le difficoltà, come siamo messi, il rapporto con l'amministrazione, eccetera. Opportunità e strategie di rivendicazione di resistenze civili. Poi abbiamo spazi popolari e logistica di autogestione, economia dello spazio, supporto anticipato alle realtà produttive, magazzini diffusi, eccetera. Reti di mutuo soccorso. Quindi strumenti economici all'interno dei nodi, esperienze di casse di resistenza e solidarietà, garanzia partecipata, cos'è, come la mettiamo in pratica, scambi di esperienze, noi è una delle nostre pratiche più consolidate e non ci stancheremo mai di parlarne. Altro tavolo tematico, economie differenti tra sostenibilità contadina e diritto al cibo, la costruzione partecipata dei prezzi, perché si sa, ormai rincara tutto, noi vorremmo tanto non dover rincarare i prezzi ai nostri mercati, ma un equilibrio va trovato fra questa società che ci schiaccia economicamente e la volontà che il nostro cibo sia veramente alla portata di tutti. Poi facciamo spazio, azione e percorsi per una città di tutti e tutte. Aggiornamento del manifesto di Giugno Clandestino, cosa intendiamo per autodeterminazione e autonomia delle comunità. Direi che un programma densissimo e come vedete molto vario, quindi noi invitiamo anche a chi non è contadino o contadina ma ci crede in questa pratica di partecipare, di venire a ficcarci il naso, perché comunque ci sono anche incontri con le città, ci sono veramente tematiche per soddisfare ogni gruppo. Alle 18 poi c'è la parte della riunione generale di tutte le reti, di tutti i partecipanti, perché è una assemblea aperta di aggiornamento, proposte, costruzione del prossimo Giugno Clandestino, eccetera. E la sera tutti invitati a grandi, grandi concerti, anzi il concerto dei Bolognina Roots Family. Che tipo di musica è? Non lo so. Ma lo scopriremo. Sorpresa. Sicuramente meravigliosa. E domenica 16 in un luogo ancora a noi ignoto, a noi tutte ignote, quindi questa da definire, crea suspense. Ma parlando con i nostri compagni e le nostre compagne dei Campi Aperti, è un luogo grande per fare un grande mercato, un enorme mercato dove siete tutti invitati, perché se è enorme vuol dire che ci saranno un sacco di banchi provenienti da tutta Italia, quindi venite a sperimentare, assaggiare, a conoscerci e a vivere, anche perché durante il mercato, poi al di là di musica, di intrattenimento e varie, ci saranno interventi al microfono e daremo spazio sia alla GKN che al Comitato No Passante, e ci saranno anche ospiti della Confederazione Paesana e altre realtà che in questo momento ci stanno a cuore anche per sostegno e solidarietà per tutto quello che sta succedendo, di cui ne parleremo più tardi. Che altro dire, compagni? Beh, accorrete tutto al Genuino Clandestino Intergalattica a Bologna. Comunque un bel programma, bello denso. Se volete trovarlo e rileggere tutti i dettagli, potete trovare il flyer dell'evento della tre giorni su genuinoclandestino.it, a breve anche su lapunta.org e su genuinoclandestinofirenze.noblogs.org. Ovviamente, se avete curiosità da chiederci in diretta, potete scriverci a radiocontado@eccellenzibera.net. Noi abbiamo la mail aperta apertissima per rispondere alle vostre domande. Oppure sul pad della diretta live su radiowombat.net. Che dire, si manda un pezzettino e poi la nostra Takeshi introduce la nuova rubrica. Le lotte contadine in India. Dal mondo. E eccoci qua. Fatti la palla. E allora oggi vi inizia questa rubrica, che in realtà è già iniziata, ma ve la presentiamo ufficialmente, che è la rubrica di Contadini dal Mondo, Lotte Contadine dal Mondo. E oggi potrete ascoltare un'intervista a Laura Bellucci, antropologa che nel 2016-2017 ha fatto una ricerca in alcuni villaggi indiani rurali del Maharashtra sulla dinamica del suicidio dei contadini che coltivavano cotone OGM, e attualmente invece sta proseguendo un dottorato a Genova concentrando la ricerca sulla recente protesta contadina. Quindi sarà una rubrica, una rubrica che anche nelle prossime puntate potrete continuare a ascoltare la situazione dei contadini indiani. E a voi l'ascolto. Perfetto, allora salutiamo Laura e mettiamo play. Allora, perché un interesse per il contesto agricolo indiano? Allora, diciamo che prima di tutto nasce un po' dall'interesse per la cultura indiana e un secondo momento per la passione per il mondo rurale in generale. Diciamo che quando ho scelto di studiare antropologia ai tempi della magistrale, lo feci in realtà per capire un po' meglio questa particolare cultura. Avevo appena visitato appunto il subcontinente, mi aveva lasciato, diciamo, un sentimento ambivalente di amore e non amore, e quindi sì, decisi di intraprendere antropologia per studiare meglio soprattutto la religione induista e la cultura ovviamente, che poi come tante altre culture al mondo spesso vanno di pari passo. Sono La molto legate. religione fa parte della quotidianità e della vita di tutti i giorni. E poi appunto nel 2014, quando stavo pensando a un po' la tesi per i miei studi, lessi di questo fenomeno del suicidio dei contadini in India e diciamo che volli capire un po' meglio che cos'era, come funzionava il mondo rurale indiano e perché si era sviluppata questa tendenza tremenda, a mio parere. E quindi vuoi raccontarci un po' questo fenomeno dei suicidi dei contadini? Sì, diciamo che appunto è stato poi parte, è stato, no parte, è stato il lavoro di tesi della mia laurea, quindi sì, ho dedicato gran parte dell'ultimo anno dei miei studi a quello, in più appunto mi sono recata in India, in quello che in antropologia è un po' la metodologia di ricerca, l'etnografia, si chiama ricerca di campo, per andare a incontrare i contadini e chiedere un po', capire un po' quello che stava succedendo, e ovviamente un po' il contesto anche entro cui si inseriva. Diciamo però, per capire meglio un po', il quadro di senso entro cui si inserisce questa, a mio parere, piaga che a tutt'oggi continua in India, del panorama appunto sociale indiano, voglio e devo fare un passo un po' indietro e cercare di spiegare un po', come si è arrivati a quella che è un po' la cosiddetta crisi agraria indiana, che parte proprio da 30-50 anni fa, diciamo. Diciamo che l'India, la storia dell'India, possiamo dire, è una storia agricola. Come molti paesi del mondo, veniamo da là. Quindi, però in India sussiste questa storia agricola parallela alla storia sociale, perché è un paese a carattere agricolo. Tutt'oggi l'80% quasi della popolazione è dentro i circuiti, fa un lavoro agricolo, che sia bracciante, proprietario agricolo, quindi già durante il dominio coloniale inglese, diciamo che i suoi confini, le terre erano sfruttate per importare nell'impero, soprattutto di cotone, appunto. È un paese che è sempre stato per secoli conquistato dagli esterni. Ora non vado troppo a ritroso, però ecco, è un paese in cui veramente molte culture sono arrivate ed hanno utilizzato e espropriato quasi il contadino, comunque hanno sfruttato le terre per i propri fini. Diciamo che la storia più recente, che a noi può interessare per capire un po' il contesto dei suicidi, è legata intrinsecamente al contesto della Rivoluzione Verde. È conosciuta la Rivoluzione Verde, è un nome che risuona perché ovviamente ha fatto danni un po' in Sud America, in Asia e quant'altro. Nasce infatti in Messico per poi È un tema che approdare. purtroppo affrontiamo spesso. Ecco, infatti mi piaceva un attimo fare il punto su questo, non solo per quello che è stato anche a livello storico in molti paesi e quindi per incrociare un po' le esperienze, quanto perché durante la rivoluzione in India nascono anche delle politiche che poi si protraggono fino ad oggi. Diciamo che siamo negli anni 60, sono gli anni in cui questa è nata in molte parti dei paesi in via di sviluppo. Era un programma per i paesi in via di sviluppo, dei paesi sviluppati. Diciamo che l'India è il 1956, in India c'è una grande siccità, una delle tante, forse delle ultime, che hanno contraddistinto quel secolo. C'è una grossa paura di arrivare a un'altra carestia che avrebbe piegato la popolazione. Quindi l'America si propone, fa un accordo con l'India per esportare cibo. Diciamo che è un'arma strategica per diffondere l'idea del capitalismo, ovviamente, come è successo, ripeto, anche in altri posti. E l'altro intento era quello di non diffondere l'idea del comunismo, a cui l'India tendeva tantissimo, era molto vicina all'Italia, è sempre stato un paese molto affine al socialismo. Quindi l'America, siamo sotto guerra fredda, quindi era tentacolare in molti paesi del genere. Quindi l'India accetta, non vuole arrivare ad un'altra carestia, fa questo accordo, l'America esporta in India una grande quantità di cibi e decide poi, dopo questo aiuto, si decide di attuare una strategia di sviluppo del settore agricolo, la rivoluzione verde. È una strategia praticamente che consisteva nel portare un'innovazione. L'India voleva essere autonoma a livello alimentare, voleva l'autonomia alimentare a tutti i costi, quindi accettò questa strategia e ovviamente vennero introdotti fertilizzanti, antiparassitari, la meccanizzazione, ci furono ingenti investimenti pubblici per il sistema di irrigazione, infrastrutture, ma anche una cosa incredibile, cioè la nazionalizzazione delle banche, per far sì che i contadini avessero accesso al credito per comprare tutti gli input necessari per il nuovo regime agricolo. In più, oltre a queste, diciamo, sviluppi, meccanizzazioni e facilitazioni, si introdussero le prime varietà di semi. Non si ha ancora a che fare con gli OGM, ma si introducono queste varietà ad alta resa. Ne cito soltanto due perché sono uno è il grano nana, appunto, che aveva, ora non voglio dire, però era più basso, più piccolo e quindi tendeva a non piegarsi e quindi a non prendere malattie. L'altro, il riso. Ovviamente l'India è famosa per queste due colture, per avere terre molto fertili per queste due colture. L'altro era l'iriotto, il riso miracoloso l'hanno chiamato. Perché? Pensa che la produzione aumentò tantissimo. Accenno un attimo, giusto per rendere l'idea, il riso, lo chiamano miracoloso perché aumentò dell'80% la produzione, soprattutto in questi stati in cui la rivoluzione verde si applicò, Punjab e l'Ariana. Per far adottare questo sistema il più possibile, il governo istituì due meccanismi tutt'oggi attivi in India, fondamentali per la sopravvivenza e che appunto incentivarono l'adozione da parte dei contadini di questo nuovo regime agricolo: il minimum support price e i mandis. Allora, il minimum support, faccio un attimo una parentesi, sì, perché è fondamentale anche per capire poi quello che poi andremo a parlare della protesta attuale dei contadini indiani. Il minimum support price è il prezzo minimo di sostegno, tradotto. È un prezzo praticamente che il governo si impegna a pagare agli agricoltori per i loro raccolti. I mandis invece si traduce con mercati. Sono praticamente uno spazio fisico dove gli agricoltori, soprattutto del Punjab e Ariana, sia allora che oggi, portano i loro raccolti per essere poi smistati, immagazzinati, spediti e essere pagati direttamente dal governo. Okay. È un sistema, diciamo, efficiente con tutte le sue problematicità, però effettivamente è un sistema per cui non ci sono offerte, quindi non c'è un prezzo a ribasso, perché l'unico acquirente è il governo. Questo, diciamo, che dà ai contadini più garanzie. Uno è la garanzia dell'acquisto da parte del governo e la seconda è della giusta retribuzione. Il prezzo giusta. Minimo. Sto facendo le virgolette. Sì. diciamo che gli unici due prodotti che ieri ed oggi hanno questo sistema sono il riso ed il grano. Ok. Ok. Il governo, diciamo, compra e poi rivende a dei mercati all'ingrosso, anche privati, ma la cosa, diciamo, che è un po' l'orgoglio, diciamo, del sistema agricolo indiano, comunque del minimum support price, è che questi prodotti il governo, oltre a venderli all'ingrosso e ai privati, li redistribuisce in un sistema chiamato Public Distribution System, che è un, ve ne parlerò dopo poi con meglio con le proteste di oggi, però fondamentalmente reinserisce questo cibo in un sistema di redistribuzione a prezzi calmierati per le popolazioni più povere dell'India. Pensa che a questo sistema aderiscono, hanno accesso 900 milioni di persone, quindi è un sistema fondamentale. Niente, questo è un po' appunto la parte buona, e sto rifacendo le virgolette, della rivoluzione, insomma, di quello che apportò l'introduzione della rivoluzione verde. È vero, sì, la produzione aumentò, ma aumentò del 20% anche la produzione di fertilizzanti, quindi si usò un'ingente quantità di fertilizzanti, cosa che prima non si faceva. Questo portò a una catastrofe ambientale e sociale, ovviamente, come si può intuire. Il paradigma dell'aumento di produzione uguale aumento di benessere fallì in modo miserabile, perché questo sistema fece arricchire i più ricchi e impoverire i più poveri per avere accesso agli input, si chiamano fertilizzanti, pesticidi. Hai bisogno di investire soldi, se non ce li hai di prestiti e entri nella allora come oggi, ripeto, è così. Quindi diseguaglianze sociali, un impatto ambientale incredibile anche nelle falde acquifere. Tutt'oggi il Punjab è uno dei paesi, delle regioni dell'India più contaminate a livello di falde acquifere. L'avvio di quella tendenza che è la brevettabilità del vivente. Quindi sono lì i semini e l'archeologia di quello che è adesso il contesto della proprietà delle sementa delle multinazionali. Distruzione dei saperi locali, ovviamente, sapete benissimo a cosa mi riferisco. Quindi una dipendenza, cioè l'India voleva uscire dalla dipendenza e c'è entrata ancora di più. E ha fatto sì che i suoi contadini fossero ancora più dipendenti. Disgregazione sociale. Vado un po' più... Siamo negli anni 80-90... la rivoluzione, come ha detto, per tanti versi ha fallito. Si arriva a quella tendenza che stava che era caratteristica un po' di tutte le società anche occidentali, cioè un periodo altalenante in cui si comincia a cedere alle politiche neoliberiste. Anche l'India comincia a fare un passo indietro verso la nazionalizzazione delle banche, eccetera. E qui un'altra tappa fondamentale della storia indiana che poi ci porta ai suicidi. Siamo agli inizi del 2000, c'è appena stato l'attentato delle Torri Gemelle. Il governo, che in quel momento in India era di destra, fa un accordo di alleanza antiterroristica con gli americani. Ancora una volta si trova da paese non allineato e non voleva avere nulla a che fare con l'America a fare degli accordi. È quindi un periodo neoliberista, inizia proprio l'epoca dell'India neoliberista. Questo dovuto anche al contesto storico, c'è il crollo dell'Unione Sovietica a cui l'India si era sempre ispirata, e quindi crollano anche un po' gli ideali a cui si rifaceva. Liberalizzazione dei mercati, l'India comincia a togliere questi aiuti, a voler togliere il minimum support price, a voler ridurre, il sistema bancario comincia ad essere privato, non più nazionalizzato. È di questo momento lo storico accordo con la multinazionale Monsanto. Ok, l'India accorda una licenza alla Monsanto che liberalizza il seme ibrido BT Cotton attraverso la joint venture, la Maico, che è la sorella indiana della Monsanto. Quindi adesso però c'è un nuovo regime agricolo che vuole essere inserito in India, che vuole essere attuato, come è stato fatto con la rivoluzione verde. Lo Stato fa una grande, il governo fa una grande promozione di questo regime, in modo che i contadini aderiscano e lo comprino, lo pratichino nelle loro culture. Però adesso non ci sono più aiuti dallo Stato. Lo Stato, appunto, non, per questo tipo di coltura non applica nessun tipo di minimum support price e di mandis, quindi tutto è relegato ed è affidato alle multinazionali e privati. I contadini che accettano di implementare questo regime avranno a che fare solo con le multinazionali private, e questo è stato il disastro che poi è stato è stato un ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨਿਹੰਗ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੋਰ ਦੱਸ ਬੀਬਾ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਆਉਣ ਦਾ il governo per farlo adottare dette promessa di benessere, di essere, di uscire dal regime di povertà in cui i contadini indiani sono relegati da secoli, e quindi fu tantissimo adottato. Si parla di un aumento delle terre coltivate a OGM nei primi anni del 260%. Ci sono stime pubbliche ovunque nei siti, che a volte ci fanno comodo, non ci piacciono tanto, però a volte ci fanno comodo per capire l'entità del danno, del problema. E i primi anni, come è stato appunto per la Rivoluzione Verde, il BT Cotton effettivamente incrementò le rese, ovvio, cioè il chimico, cioè il grosso problema dei parassiti che invadono le colture di cotone, diciamo, i primi anni fu risolto, cioè spruzzavano pesticidi, avevano questo seme che ovviamente è un seme ibrido, è un prodotto elaborato nei laboratori, quindi ad alta resa, resistente, via dicendo. È frutto di una elaborazione genetica in cui all'interno del seme, come sicuramente in tanti sanno, è stato instillato il gene del Bacillus thuringiensis, capace appunto di produrre questa particolare tossina che rende il seme immune dagli attacchi di insetti e parassiti, e quindi i primi anni questo ha aiutato tantissimo le colture. Poi qualcosa successe. Cosa è successo? I primi appunto 4-5 anni funzionò, poi diciamo paradossalmente, dico paradossalmente perché l'India è un paese che ha tantissima scarsità di acqua, è un problema grossissimo l'acqua in India. E paradossalmente il BT Cotton è un seme assetato, ha tanto bisogno di acqua, e quindi questo è un primo problema, quindi l'approvvigionamento di acqua. Per farti capire un po' dove ho fatto io ricerca, che è la regione più colpita dal fenomeno dei suicidi dei contadini, sono dry land, si chiamano, cioè terre secche. Vuol dire che loro coltivano in base ai monzoni, sì. Seguono il ciclo monsonico per e questo è stato un disastro, ed è proprio, non è un caso che sia la zona più colpita dal suicidio dei contadini, perché lì ha fallito. L'altro problema è un seme che ogni anno è sempre divenuto più resistente agli antiparassitari, quindi la Monsanto in primis ha dovuto ogni anno creare un seme più performativo. Questo significa che ogni anno doveva reintrodurre un seme differente, più performativo e più costoso. Poi cambi climatici. L'India è stata negli ultimi decenni colpita tantissimo, più che altre regioni del mondo, dai cambi climatici. Forti piogge e periodi di siccità fortissimi che hanno messo in ginocchio le colture, ovviamente. E quindi bassi guadagni. Distruggono i raccolti, i cambi climatici, le piogge, quindi non si ha guadagno. Aumento dei costi, come dicevo, seme più performativo, ma anche fertilizzanti, la legge del mercato, cioè te ne hai bisogno perché sei entrato nel mio regime, hai bisogno di quello e io ti alzo il prezzo. Sterilità dei suoli, dopo neanche tanti anni, dopo i primi anni di uso massiccio, non erano stati distruiti, sì. I contadini, quanto uso si potesse fare di questi, e quindi loro vedevano che venivano sempre più attaccate queste piante dai parassiti, e loro continuavano a usare dosi massicce di antiparassitari. Quello che ne è risultato è che si è creato questo fenomeno di sterilità dei suoli, che poi dopo di cui parlerò un po' meglio. Quindi perdita dei raccolti, non guadagni, debiti. Significa che tu, contadino piccolo, che in India sono pressoché piccoli contadini, ma small farmers, perché con la ripartizione delle terre, anche qui non sto a parlare della storia un po', però i piccoli contadini sono la maggioranza in India ed hanno dai 2 ai 4 ettari, quindi quando hanno introdotto questo regime tutti hanno dovuto chiedere dei prestiti. E non avendo più le banche nazionali, le prestiti erano per chi poteva accedervi le banche private, ma molti dei piccoli contadini sono adivasi, sono le caste più basse, sono coloro che non hanno neanche un conto in banca, non hanno accesso al credito, quindi usurai. Certo. Non potendo ripagare i debiti degli input che avevano comprato, in molti hanno cominciato a suicidarsi. Questo è un po' il contesto in cui ha preso piede questa catastrofe. Tu pensa che dai primi anni 2000 si registrano, e qui sono ancora questi sono dati del Bureau of India, che è quello ufficiale, ovviamente sicuramente è sottostimato. Pensa che nella regione dove ho fatto ricerca, quindi la regione di Vidarbha, che è lo stato del Maharashtra, che è questo stato nel centro-sud dell'India con capitale Mumbai, si registra un caso ogni 30 minuti da quegli anni lì, dagli anni 2004-2005 si registra un caso ogni 30 minuti di suicidio di un contadino, spesso ingerendo lo stesso antiparassitario che usano per i loro raccolti, quindi anche un gesto ricco, denso di simbologia, no? Ci vogliono comunicare ovviamente quello per cui si uccidono, diciamo. E quindi diciamo che la mia ricerca, l'interesse che io avevo nell'andare a capire nei villaggi quello che stava succedendo, era uno la situazione, che cosa stava accadendo, perché si suicidavano, erano davvero i debiti, come si leggeva un po' da degli articoli che avevo letto, e come si stavano mobilitando, ma si stavano mobilitando, queste erano un po' le domande che mi giravano in testa. E diciamo, quando io sono arrivata ho trovato questa associazione Dharamitra che aiutava i contadini a convertirsi dall'OGM all'organic, quindi da una monocoltura con semi ibridi a una coltura che torna un po' ai metodi tradizionali, l'organic farming, che è questa, proprio si chiama così perché utilizza determinate miscele fatte con erbe, cioè proprio tutte delle tecniche particolari sviluppate da questo professor Taraccase, e aiutava i contadini a convertirsi. Quindi io arrivo e mi domando, ma se c'è un contesto in cui si può avere un'alternativa, ti aiutano a farlo, perché non si abbandona l'OGM se è così problematico, no? Le risposte sono varie, sono molte ovviamente, un po' perché non si può abbandonare. Non si può per contratti che hai fatto con le multinazionali? No, in India non esiste il contract farming ancora, o almeno non esiste solo in un paio di stati, e il Maharashtra non è uno di quelli. Non si può allora, dopo tanti anni i terreni sono sterili, abbiamo detto, oppure sono carentissimi di proprietà organiche, perché uno dei problemi è che io ho visto con i miei occhi i contadini non girano le terre. L'OGM ha instaurato non solo nuove tecniche, ma una maniera proprio di stare al mondo, una maniera differente di fare contadinità. Cioè, loro non girano più le terre, non danno più dei nutrienti organici, perché sono i fertilizzanti chimici che danno. Infatti un po' mi sono rifatta anche alle teorie di Stefano Boni, no? Dell'homo comfort, perché è molto più facile come metodo agricolo. Quindi non si può, perché le terre hanno bisogno di essere rifornite, e per farlo c'è bisogno di lasciare le terre non coltivate tempo. E quindi hanno sviluppato, la Dharamitra ha sviluppato un metodo di rotazione, lasciare determinate terre incolte, una in cui si continua a coltivare l'OGM, le altre le lasci incolte, e piano piano riesci a ripristinare un po' la fertilità. In quel modo puoi convertirti all'organic. È una delle maniere che ha sviluppato, un metodo che ha sviluppato questa associazione. Perché un altro problema, secondo me, cioè, è incredibile, i contadini dopo 20 anni, 30 quasi di OGM non hanno più idea dei metodi tradizionali, Quindi davvero è importante, cioè dice no, arriva questa associazione e gli insegniamo a fare il contadino. Sì, purtroppo hanno sì. Perso tutte le conoscenze. Assolutamente, è uno dei problemi, anche l'associazione mi diceva. Dobbiamo facciamo dei meeting dove li facciamo incontrare proprio per insegnargli delle tecniche tradizionali insieme a delle nuove tecniche, nuove misture con delle erbe per fare per dare fertilizzante alle piante. Oppure non si vuole, e ora un po' provo a dirvi perché. Diciamo che le motivazioni appunto sono varie del perché non si può o non si vuole. Non c'è un mercato parallelo, almeno io, la mia ricerca è stata dal 2016-2017, un po' a cavallo di quei due anni. Non c'è un mercato parallelo bio. Uno sbocco economico. Dove poter, se tu decidi di convertirti, però devi, dove le vendi? Cioè lì i mercati sono tutti, cioè passano i trattori, raccolgono i cotoni dai campi e le portano nelle dove si raccolgono, che poi le multinazionali vengono a prendere, hanno degli accordi particolari per cui ti vendo, insomma vado a vendere lì perché quello, cioè non mi metto insomma a troppo a spiegare il meccanismo. E, si sta sviluppando, Daramitra aiutava anche tanto in questo, però ovviamente è per pochi. Se non sviluppi un mercato più grosso, anche il convertirsi poi ti lascia, mi viene da dire, un po' col culo a terra, no? E poi un'altra cosa, secondo me, è un po' più, questo fa parte un po' più degli immaginari, che poi come società umana viviamo anche di immaginari, di aspirazioni, cioè tutto quello che facciamo è quello per cui, quello che agiamo è anche perché lo pensiamo, lo immaginiamo, no? Aspiriamo a quello, quindi una parte della mia ricerca è stata anche capire un po' quali sono gli immaginari un po' dei contadini. Cioè per loro l'OGM gli è stato venduto, ma è stato anche una possibile riscatto dalla loro vita, perché parliamoci chiaro, in India un contadino fa fatica a mangiare, è così, ma non ora, da sempre, quindi insomma ha voluto dire un riscatto. Soprattutto i primi anni davvero hanno avuto un rientro, in tanti, anche i piccoli, poco, però hanno potuto mandare i figli a scuola, a studiare, insomma, quei piccoli passi che un po' tutte le società, anche noi italiani, abbiamo fatto quando i nostri nonni hanno lasciato le campagne e sono oppure hanno meccanizzato l'agricoltura, sono rimaste nelle campagne. Quindi una vita meno faticosa, diciamo varie motivazioni per cui. Un altro poi importante, un altro importante problema è che l'OGM ha instaurato questa volontà anche di abbandonare le terre dove vieni, i villaggi, l'aspirare a qualcos'altro che insomma ti tolga da questo regime di povertà, che poi ancora in questi luoghi noi li stiamo un po' rivedendo, i contesti agricoli, no? Li stiamo rivitalizzando, li stiamo riprogettando, no? C'è un'inversione, sì, no? E nelle periferie del mondo questa tendenza ancora fa fatica, no? È perché per questi motivi qui. Quindi c'è la volontà di abbandonarle le terre, non di investirci nelle terre con un possibile organic. Sappiamo benissimo che organic significa una progettualità a lungo termine, fare biologico vuol dire instaurarsi in un territorio, radicarsi in un territorio, cosa che lì molti rifuggono, non vogliono fare, vogliono scappare da quelle terre perché viste come arretrate, povere, difficili, ancora di più con i problemi che l'OGM ha generato, no? Quindi diciamo che l'organic è anche una rinuncia a questa idea, di questo sogno di rivalsa, no? Poi non c'è la famiglia, i figli sono stati mandati a studiare fuori, è stato possibile in un primo momento mandarli fuori a studiare, quindi poi la famiglia non c'è più, quando rimani moglie e marito e ognuno nel villaggio ha cominciato a fare il suo, non c'è più quell'aggregazione, quel fare tutti insieme le terre, lavorare le terre, aiutarsi, se non hai l'apporto della famiglia un organico è molto difficile da implementare da soli. Diciamo che, appunto, come dicevo prima, l'OGM ha modificato la maniera di stare al mondo. Secondo me incarna proprio, è un seme che incarna gli ideali del neoliberalismo: velocità, comodità, grandi quantità. E loro hanno introiettato per certi versi questa, almeno una vita più facile, l'essere umano tende al... Quindi vabbè, questo è stato uno delle questioni che ho voluto approfondire quando incontravo i contadini e chiedevo quali erano i loro sogni, le loro aspirazioni, perché non ha funzionato per loro, perché non si vogliono convertire all'organic. Questo era un po', diciamo, quello che è emerso un po' nel vivere un po' là, incontrarli, intervistarli. Alcuni contadini organic che si erano invece convertiti all'organic spesso chiamavano il seme OGM, cioè, il seme ready made, mi dicevano. In una parola, a me questo ha ready made, già fatto, loro sono ready made, non gli importa di coltivare la terra, basta che sia facile, basta che sia... Cioè, questo dicevano i contadini organic dei contadini del loro villaggio che ancora coltivavano OGM. Non gli interessa della natura, loro non gli interessa niente, basta che sia qualcosa che gli dà un po' di soldi. C'è anche creato questa poi guerra fra poveri, mi viene da dire, ora molto banalmente lo dico. Però, diciamo, sì, e questa inerzia, ecco, diciamo, io cercavo di capire se c'era movimento, se c'era una volontà di problematizzare l'esistente, no? Quella che era la loro condizione. E sì, tanti dicono, sì, è vero, l'OGM mi dà debiti, l'OGM crea, però ho provato a mettere l'organo, ma mi rende meno, oppure gli chiedevo, ma state cercando di cambiare un po' il sistema, cioè volete che cambi un po', ma no, insomma, quello che io volevo vedere non l'ho trovato, o almeno al tempo non l'ho trovato, ho trovato una sorta di inerzia, uno stallo. Sì, una impossibilità, non una volontà forse di reagire a un sistema davvero difficile da capire, complesso, che li paralizza fondamentalmente, li paralizza nel tentare di mettere in atto un cambiamento. हो जरा डूब कमल सरकार चलावने आले रे एक फुट्टा ढूंढ परिवार तमानस खोस लिया हो जरा डूब कमल सरकार चलावने आले रे एक फुट्टा ढूंढ परिवार तमानस खोस लिया चाहिए परण न बना चाहिए कोई कोने सोचे जमींदार कह भी आना चाहिए खान न रदना चाहिए परण न बना चाहिए कोई कोने सोचे जमींदार कह भी आना चाहिए रगारा बेटी हीरो बेच दे कालज बाबू मना तेरे कायन ता सहमना बार भी मैं कर टोप लिया है हो जरा डूब कमल सरकार चलावने आले रे एक फुटा ढूंढ परिवार तमानस खोस लिया सब वोट मांग कर चले गए मेरा कर्जा माफ कर किसे नहीं अनदेव के लीड बाटे रे क्यों बाकी देवता ऐसे नहीं अनदेव के लीड बाटे रे क्यों बाकी देवता ऐसे नहीं रमेरी दस आली सब जीवी महंगी लाग दी यार तू मोला मैं खिलौना के हजार दे जगा रौना सारी साल मोटा तोड़ा दस मिले नारा कुछ गा के गीत लाखो गुलजार ले जगा रौना सारी साल मोटा तोड़ा दस मिले नारा कुछ गा के गीत लाखो गुलजार ले जगा साहूकार सकाटे गाल मजबूर ही समझना रमन तर दी इज्जत देख गेटुआ मोसलिया रब सक जा जवान जा किसान साथ में कवे से दुनिया पर फौजी भाई मेरे अल्लाह तेरे जिसे कोना तेरी तो शहीदी पे मेडल तो आज जैसे रब मेरा कफन के भी पीछे कोना के इंटेंसिटा मेरा कौन सी भी एकोची. Un ringraziamento grandissimo alla Laura. Grazie Laura, ciao. Ciao Laura, sì, complimenti. Veramente, vabbè, comunque una bella intervista, sciolta, e anche bello comunque l'ingrandimento che fa su il quadro, cioè sul quadro storico della guerra fredda, dalla rivoluzione verde, a tutte poi, diciamo, le conseguenze, cioè le conseguenze, diciamo, più che altro le azioni che intraprende poi lo Stato indiano, che è prevalentemente socialdemocratico, però poi comunque aggiunge a patti con gli Stati Uniti o con le multinazionali, però nazionalizza comunque le banche, inizia a dare sussidi, aiuti ai contadini, questo poi per implementare anche quello che sarà poi il commercio dei semi, poi anche sono le lobby, no? Degli OGM che saranno, diciamo, un po' all'apice la conseguenza. E io ho una lettura un po' più emotiva, mi sono venuti i brividi soprattutto a sentire il finale, è che quando sembra non ci sia più speranza, quando lei parla di inerzia, che ha trovato non un sentimento, non una voglia reale di uscire da un determinato sistema, da una determinata situazione. Senza speranza, ecco, un po' mi fa rabbrividire, mi inquieta tanto. Però possiamo anticipare che le interviste continueranno, cioè abbiamo altre puntate a seguire. In realtà in India in questi anni c'è stata una mobilitazione grandissima e quindi in realtà sappiamo lo spoiler a qualche anno di distanza che in realtà in India il mondo contadino si è organizzato in un modo veramente bellissimo e è riuscito a portare una protesta e una lotta veramente veramente interessante. Quindi nella prossima puntata, almeno da questo punto di vista, avremo una parte un po' okay, più... Ok, perché c'è l'aggiornamento, Laura è tornata recentemente in India, sì. Cioè, le informazioni al di là dello studio sul campo sono state fatte non solo nel 19, mi sembra. Questa parte qui si parla del 2016-2017. Okay, e invece poi è riuscita a tornarci quest'anno a cavallo del 22-23 e le proteste, cioè diciamo l'occupazione di Delhi e quindi la protesta più grossa del mondo contadino indiano è stata a cavallo invece del 2020. Ok, vabbè, poi lo ascolteremo, tanto l'ascolteremo. Sì, sì, okay. Sì. Ma sì, noi siamo felici che invitiamo, anzi, chi ci sta ascoltando ad ascoltare anche la prossima puntata o il prossimo podcast in base alla formula che voi preferite, perché ci sarà un po' più di speranza. Di rivalsa, almeno di lotte che continuano, si sa, le lotte contadine sono lunghe e sofferte, da cui secondo me ci sarà anche da prendere spunto e da imparare da queste lotte nel mondo che si sviluppano in modi molto diversi ma che sicuramente ci fanno bene a vicenda. Piccola pillola, e sono le lotte contadine anche fra le più antiche della nostra cultura, perché le prime rivolte all'interno dell'Impero Romano, all'interno dell'Italia, quindi del nucleo, sono state perpetrate da pastori, perché erano gli unici, in un mondo dove non c'era internet e WhatsApp, a potersi spostare senza essere sorvegliati costantemente. Sappiamo che i contadini erano fondamentalmente quasi tutti schiavi, erano pochissimi braccianti pagati, e i pastori, muovendosi per pascolare le greggi, avevano modo di entrare in contatto con altri pastori e far passare messaggi su e giù tra regioni dal centro-sud Italia e far partire quelle che sono state le prime effettive rivolte contadine della nostra cultura intesa come dall'impero romano in poi. Boh, grandissima, la nostra Clio è sempre preparatissima, piena di nozioni. E noi speriamo che, insomma, tutta questa rubrica sulle lotte contadine nel mondo serva a puntare l'attenzione, perché purtroppo se ne parla sempre pochissimo, se se ne parla, cioè, perché di informazioni sull'India qualche non anno fa arrivano. Qualcosina era arrivata, ma minimizzando, non arrivano notizie, non c'è informazione. Questo è un grave problema della nostra società, che l'informazione è quella vera, quella che ci dovrebbe servire anche a riflettere, per essere sia solidali con i contadini o con chi sta lottando in tutto il mondo, ma anche per mettere anche noi in pratica delle lotte, perché non è che perché siamo in una società diversa di questi problemi noi non ne abbiamo, magari non così, però si sa che comunque almeno per come viviamo noi la situazione di contadinanza, e ne parleremo al GICE a Bologna tra due fine settimana, da lottare ce n'è, perché ci stanno schiacciando abbondantemente. Bene, che dire, vi lasciamo due minuti senza di noi, vi facciamo ascoltare un po' di musica e torneremo con aggiornamenti sull'orto estivo a cura di Takeshi-san. Così. Ma è stata una canzone lampo, velocissima. Sì, me ne aspettavo un'altra, tra l'altro. E tutto a posto. Così, niente in ordine. La nostra regia ha deciso questo. Mi sono emozionato e non riuscivo a decidere quale canzone mettere. Avevo deciso per una canzone ignorantissima, e tra l'altro per cui mi sarei scusato. E poi in realtà la canzone non veniva riprodotta dal player perché in un formato non idoneo. Ovviamente adottiamo ogni tecnico disponibile sul territorio per farci aggiornamenti sull'utilizzo dei macchinari. Tecnologie. Altrimenti d'ora in poi faremo la diretta via megafono girando col furgoncino. Bello. Che sarebbe molto bello, secondo me. Anche nelle secondo piazze me. Nei mercati sarebbe uno dei miei sogni. Ma chissà, magari lo prendiamo come spunto. Se vi piace, radioascoltatrici, scriveteci a radiocontado@ensivera.net dicendo sì, vogliamo assolutamente che voi fate le dirette col megafono in giro per il mondo. Ma adesso torniamo alla contadinanza, quella vera, torniamo che non seri. Sarà a chilometri di distanza, ma visto che arriva la stagione boom dalla primavera. È già arrivata. È già arrivata nell'orto, lasciamo la voce alla nostra esperta contadina Takeshi. È così. Allora, Che succede nell'orto? Che succede? Allora, in semenzaio siamo in un momento proprio pieno di apice, quindi che dobbiamo seminare? Se non l'abbiamo già seminati, pomodori. E iniziano anche le prime semine di zucchina, che però sono un po' azzardate, perché insomma questi ritorni di freddo ci fanno un po' tremare, quindi se poi vi germogliano e germogliano molto in fretta dovete anche proteggerle quando le mettete fuori. E anche tutte le insalate si possono continuare a seminare e possiamo partire anche con tutto il mondo dei fiori. Voglio sapere tutto, ti prego. Fiori? Fiori, quindi fiori che rendono l'orto bellissimo e aiutano gli impollinatori. E quindi sono secondo me fondamentali in un orto e quindi al momento di iniziare a seminare tageti, calendule, fiordalisi, tutto quello... Ma quello diretto in campo o in semenzaio? Io faccio in semenzaio, ancora. Poi tra un po' si può passare anche alla semina diretta, ma per il momento sempre meglio in semenzaio. Ascolta, quest'anno che non ha fatto incredibilmente freddo rispetto all'anno scorso, tutti i miei adorati fiori, sia quelli messi a dimora in camera mia davanti alla finestra che quelli in semenzaio, che tutte le piante acquatiche lasciate in giardino, nell'acqua, controllando che non gelasse l'acqua, sono apparentemente morte, no, per questo inverno mite, a tranne le calee di rosa che ho fatto da te, che sono sopravvissute e sono felici. Perché? Cioè, oltre al perché, che devo fare? Se sono proprio morte, ti consiglierei di riseminarle. E... Non c'è un modo per resuscitare le piante morte? Non l'ho ancora appreso, ma quando... No, voglio dire, se non sono morte, a quest'ora dovrei già vedere dalla base dei ributti o aspetto ancora prima di dargli in pasto al mio cane che li usa come valvola di sfogo? È possibile che alcune stiano, cioè si possa aspettare ancora un po'. Tendenzialmente dovrebbero avere già iniziato a buttare qualcosa. Quindi non è un buonissimo segno. Diciamo che magari vivi in un posto particolarmente freddo e quindi stanno aspettando ancora un pochino. Boh, io ho tutti quei papiri, poverini, gridano vendetta al cospetto di Dio, sono gialli fino alla morte. E speravo ributtassero da sotto. Quelli sono... Il papiro non ama particolarmente il freddo. Lo so, ma non ha fatto freddo quest'anno. Potresti averlo ucciso. L'ho ucciso, va bene. Capita, capita. Io e il mio pollice nero. Succede. Succede. E dal semenzaio possiamo passare al campo, che invece in questo momento, se non avete ancora messo le patate... Gli ultimi giorni vanno messe. Non c'ho posto. E cipolle, si iniziano a mettere le cipolle per farsi le cipolle da serbo. E poi possiamo iniziare a mettere fuori in terra anche tutto quello che sono appunto le prime foglie, le insalatine, la rucola, i ravanelli. E invece, se vogliamo mettere le prime zucchine, dobbiamo fargli un po' di struttura per ripararle, perché se no loro lo sentono veramente troppo veloce il freddo. E speriamo a breve di iniziare invece a raccogliere le fave e i piselli, se i fiori non continuano a essere gelati. E quindi questo per la raccolta. E poi, che dire, nell'orto iniziamo a preparare invece la terra in cui metteremo appunto tra un mesetto pomodori, peperoni, peperoncini e cetrioli, melanzane. E tutto il resto, melanzane. Diciamo che ormai, fino a qualche anno fa, a me mi veniva raccontato dai vecchi contadini che mi insegnavano a fare l'orto che il 15 di aprile i pomodori li mettevi in terra. Ecco, diciamo che negli ultimi anni io ho potuto vedere che prima di maggio non ci pensi neanche a metterli in terra, e non è detto che a maggio. Quindi la stagione si è posticipata un pochino, ma noi ormai ci adattiamo. Ma sei proprio posticipata o conviene tipo metterne un po' ora, poi un po' dopo ancora, diversificare? Uno può provare, diciamo che negli ultimi anni davvero fa talmente freddo che le piante, almeno appunto pomodori e zucchine, sentono troppo questo freddo, a meno che uno non gli faccia una serretta intorno. E... Io ho bisogno consulenza su alberi da frutto. Sono anni che riesco a perdere millanta alberi da frutto, in particolare il melograno, che io mi ostino a mettere e puntualmente il caso, il cane, il freddo me lo vuole morto. Allora, adesso ho messo a terra un melo e un pesco. Pesco già non l'ho messo prima perché non era il caso di toccare la terra, era fradicia da morire, era dura. Pesco già in fiore, melo con le gemme, e quel povero melograno che è rimasto, l'unico che sopravvive a oltranza, è uno stecchetto che c'ha già le gemme. Che fo? Perché qui Pandolfini minaccia gelo, me li ammazza anche quest'anno. Tranquilla. Il pianto antigelo. È tardi. Il latinello. Che vuol dire tardi? No, nel senso fino che fino a stamattina erano vivi. La notte più fredda, probabilmente il nostro guru meteo dice che sarà stanotte, e in questo momento tu sei qui con me, quindi a meno che stanotte non vuoi andare a mettere una copertina ai tuoi alberi da frutto, diciamo che... Però raccontano un tempo, nella vigna però, effettivamente non so se vale per gli alberi da frutto, che i contadini facevano dei grandi falò durante la notte, stavano quindi svegli tutta notte a... Via giù, stasera tutti a casa mia fai falò, c'è cioè da salvare un melograno. Potresti dire grandi feste notturne con falò sparsi, alimenta il tuo falò e salva una pianta. No, io ho l'ansia sociale, troppa gente, sto male, poi muoio io e non il melograno. Piccoli falò sparsi. Piccoli. Tre o quattro persone massimo per falò. Esatto, con distanza di sicurezza preventiva. No, quello che possiamo dire è che almeno nella nostra zona sta salvando in questi giorni è il vento, che è un po' la salvezza, anziché il fuoco. Se tira vento non fa asciuga, e quindi le piante, anche se scende, ovviamente se fa meno 10 muoiono uguale, però se scende di qualche grado sotto zero non ne risentono, come se invece scende di qualche grado sotto zero senza vento. E quindi quando c'è vento possiamo non fare il falò e le piante non muoiono. Quindi santo vento, che a me mi agita e mi dà un fastidio incredibile, inizierò ad apprezzarlo e ad amarlo in questo periodo, perlomeno. E con questo concludiamo il nostro aggiornamento orticolo. Ma ogni quanto ci farai questi aggiornamenti? Ah, a voglia. Rilasci consulenze? Forse. Fa per consulenze scrivete a radio.chiocciolensiviere.net e chiedete di Takeshi la rubrica dell'orto. Vari aggiornamenti vi aspetteranno. Ora direi potremmo mandare un altro bel pezzaccio musicale e prepararci a un collegamento. See the same reflections of city life. Too far away to see above the satellite. You're a runaway. What am I gonna do with you if you go back? Switch off the light. Switch off the pollinating rooms have gone tonight. Does everyone? What am I gonna do if you went to bed? Does anyone? is the southern star. Backside view of you is a Saturday. Rieccoci tornati qui, siamo sempre su Radio Contado, nello studio di Frittole. Se volete ascoltarci, potete ascoltarci sulle frequenze medie 13,59 kHz oppure su radiowombat.net. E siamo tornati, abbiamo iniziato questa puntata parlando delle lotte contadine, questa la precedente rubrica dall'Ecuador fino a Guatemala, scusami Takeshi, fino a oggi con le lotte contadine del passato e di oggi sull'India, sulle lotte contadine ed ecologiste, e spostiamo la lente di ingrandimento su quello che è successo in Francia a ovest, a Sansolin, dove c'è stata la manifestazione dei sollevamenti della terra contro questa mega opera che vogliono costruire. E qui con noi abbiamo una nostra amica militante di ecologia politica che ci racconterà cos'è successo anche nello specifico, sugli scontri, su quello che abbiamo letto anche su InfoOut e altre fonti. Ciao, ci senti? Mi sento, grazie mille, ciao a tutte e tutti. Ciao. Io, come diceva, sono militante della rete di ecologia politica e insieme ad altri movimenti e realtà contadine italiane abbiamo scritto questo appello, un comunicato per sostenere la lotta dei contadini francesi, dei movimenti ecologisti dopo la repressione che hanno subito. L'abbiamo fatto anche perché chiaramente sono venuti in Francia, c'è stato un dialogo che si è costruito nel tempo con varie date appunto in molte città italiane per lanciare quella manifestazione del 25, e quindi la partecipazione anche da parte di molti gruppi militanti italiani è stata molto alta, e siamo tutti stati quindi partecipi e testimoni di quello che è successo. Probabilmente l'avete visto tutti, era sulle pagine di molti giornali, anche in Italia è stata ripresa perché la repressione che abbiamo subito è stata gigantesca. C'erano 3.200 agenti di polizia sul posto, un bilancio anche di feriti impressionante, con più di 200 persone, 40 gravi, due persone tra la vita e la morte, di cui una abbiamo saputo recentemente che si è risvegliata dal coma, ma l'altra invece ancora oggi in coma, con appunto una carica, sono state puntate più o meno 4.000 granate lacrimogene, flashball, insomma armi che solitamente non dovrebbero essere utilizzate in contesti civili e che soprattutto sono vietate in molti paesi europei. Quindi sicuramente il problema della repressione in Francia, che va oltre anche la questione dei mega bacini idrici di Saint-Olin, perché in questo momento appunto con la riforma delle pensioni c'è uno stato quasi di guerriglia permanente. Io mi trovo al momento a Parigi e diciamo che tutti i giorni c'è uno stato, un livello di scontro e di conflitto che ormai il governo non è più in grado di gestire. L'unica risposta che riceviamo è appunto una repressione fortissima. L'annuncio infatti pochi giorni dopo l'evento del 25 è stato proprio lo scioglimento, la volontà di sciogliere il soulèvement de la terre, come diceva in italiano il sollevamento della terra, da parte del ministro degli interni Gérald Darmanin, e lì ancora una volta abbiamo deciso quindi di pubblicare questo comunicato, perché la violenza e la repressione, arrivando addirittura a sciogliere questo movimento, è qualcosa appunto che non si è mai toccato. E insomma, penso che rappresenti molto questa stretta rispetto sia ai movimenti contadini che ai movimenti ecologisti che registrano non solo in Francia, ma anche un po' in tutta Europa e in Italia. Ti ringraziamo per questo aggiornamento, sicuramente che è una cosa gravissima, soprattutto il bilancio dei feriti che è avvenuto lì in quei giorni. E noi come comunità di resistenza contadina Jérôme Laronze, come abbiamo già espresso e ripetuto, vi diamo tutta la nostra solidarietà, sperando che questa solidarietà possa andare anche oltre, diciamo, e quindi anche arrivare a una pratica, ecco, concreta, per andare incontro a questa repressione che ogni giorno va ad aumentare. Certamente, ma anche perché in Italia avremo le stesse problematiche, anzi sappiamo già che Coldiretti e compagni hanno più o meno delle idee di bacini idrici simili a quelli del modello francese, sì, che a loro volta sì, sono ricalcati sul modello americano. Quindi sicuramente questa battaglia non finisce qui, soprattutto non finisce sul confine della Francia, ma ce la portiamo a casa, ed è importante, come dici tu, costruire anche la volontà, no, di una nuova convergenza sul nostro territorio. Sì, appropriarsi di pratiche e saperi per poter respingere appunto la repressione nei nostri confronti. Va bene, e ti ringraziamo, ti chiedo solo se in futuro, a breve o più in avanti, ci saranno altri appuntamenti, se appunto i sollevamenti della terra stanno diciamo organizzando altri eventi, altre manifestazioni. Certamente, c'è tutto un calendario che si sta appunto delineando. Alcune date sono già state rese pubbliche su altre lotte, perché il soulèvement de la terre in realtà è una coalizione in cui si uniscono, ed è questa anche la forza, no? La forza di essere presenti in molte realtà del territorio francese. Una prossima manifestazione sarà a Tolosa contro un progetto di autostrada, anche lì un progetto in realtà, un mega progetto, no, che va potenzialmente a danneggiare, a cementificare tutta una serie di terre agricole del territorio, ma penso anche appunto a un altro evento di Rouen, e poi si penserà verso giugno una possibile convergenza attorno al progetto appunto del TAV, e quindi unendo anche il lato italiano, e lì sarà l'occasione appunto per una bella convergenza sia da parte dei movimenti francesi che italiani attorno al progetto del TAV, quindi per ribadire ancora una volta una solidarietà con il movimento dei soulèvement de la terre, ma anche appunto il movimento Notav, che ha assolutamente bisogno in un momento appunto simile, in cui ancora una volta si ritorna in Italia a parlare del TAV, di un appoggio da parte di tutte le realtà territoriali, ecco. Va bene, e quindi ti chiedo se e dove possiamo trovare questo calendario, o se verremo a conoscenza delle varie date via via, ecco. Per ora è stato pubblicato sul sito dei soulèvement de la terre, quindi attraverso i canali Instagram, Telegram o Twitter, e sul loro sito Sollevamento della Terra. Penso che anche in Italia cercheremo di portare queste date, che sia attraverso info auto o da altri canali. Non mancheranno sicuramente le occasioni per capire come aggiungersi, partecipare e costruire ancora più forte insieme questa manifestazione, ecco. Ok. Allora, noi ti ringraziamo e ti invitiamo anche in futuro a intervenire qui a Radio Contado per condividere appunto con noi questi appuntamenti e gli accadimenti nelle varie manifestazioni e anche per farli ascoltare alle nostre ascoltatrici e ascoltatori. E ci sentiamo presto. Grazie mille a voi, buona giornata. Grazie mille. Ciao. Ciao. Ciao. Cioè, per chi ne volesse, ho cercato in questo momento sollevamentiterra.noblogs.org, dove insomma si trovano informazioni su quello che sta accadendo, quindi se c'è anche l'agenda, sostieni la marcia, contatti, eccetera. Quindi per chiunque fosse interessato ad approfondire, sollevamentiterra.noblogs.org. Va bene, quindi insomma, come ci ha appena testimoniato la nostra amica, in realtà è praticamente iniziato il tutto, quindi le lotte contadine e anche le resistenze territoriali continuano a farsi sentire. Vi lasciamo con un pezzettino o un pezzettino musicale, dai, poi concludiamo con aggiornamenti vari, mail che fioccano sulla nostra, ma non vi dico nulla, dopo, tutto suspense. Dopo. Suspense. Sem dar sentido e amor à luta, nada na vida se alcança sem dar sentido e amor à luta. E quando o amor aparece firme, espero. O amor aparece firme, espero que nunca faças sentir-me fraca como eu não quero. Que nunca faças sentir-me fraca como eu não quero. Se me queres amar, lá vou estar. Oh, meu amor, se me queres amar, se me queres amar, lá vou estar. Nada na vida se alcança sem dar sentido e amor à luta. Nada na vida se alcança sem dar sentido. Parece livre, espero. E quando o amor aparece livre, espero. Que nunca faças sentir-me fraca como eu não. Ben ritornate, e quindi la prima novità è la meravigliosa rubrica cinema della nostra Pam. Non vi anticipo nulla, ascoltate. Significa proboscide. Però non cambiamo argomento. Non è mica una gara a chi pisce più lontano. Il punto, la cosa meravigliosa, è che ognuno di questi fiori ha un rapporto particolare con l'insetto che lo impollina. C'è una certa orchidea che ha lo stesso aspetto di un certo insetto. Attimi di pazienza e ritroviamo... Problemi tecnici, ora ritroveremo subito... Ma si parla comunque di fiori, quindi sì, tutto sì. Accettiamo scommesse, vince un premio incredibile chi ci sa dire in quale puntata è stato passato questo pezzo. Oppure... Scriveteci. Oppure che film era. Anche... Io non lo so che film non era. Fate a gara, eh. Quanta poesia. Quanta lo voglio vedere. Niente, la voce quindi... di lui sembra molto affascinante. Chiediamo scusa per il disagio. Oggi è una giornata problematica, piena di inghippi tecnici. Rispetto alla puntata del Guatemala, gli inghippi tecnici oggi sono acqua fresca. Sì. Vabbè, noi comunque stiamo migliorando, portiamo sempre contenuti nuovi, anche una dobbiamo rubrica cinema e docufilm. Insomma, ma ve l'aspettavate da noi così scarsi tecnologici di Radio Contado, una rubrica docufilm? E invece la nostra Pam ci ha stupito. Non solo, io voglio sapere quando hai il tempo di guardarseli tutti questi film, perché ha sfoderato delle perle notevoli l'altra volta. La intervisteremo. E come ci ricordava Caterpillar, aggiorna, attendi. Buongiorno. Buongiorno e benvenuti alla prima puntata di Al Cinema con Pamela, una rubrica di consigli cinematografici a cui potrete partecipare scrivendo a radiocontado@insiberia.net. Ed è sulle note di Relax di Frankie Goes to Hollywood che vi consiglio di vedere il rifacimento di Omicidio a luci rosse di Brian De Palma, del ben più noto e famoso Omicidio a luci rosse di Alfred Hitchcock. Allora, veniamo invece al film che avevo pensato di consigliarvi questa settimana. Si chiama Triangle of Sadness ed è di un regista svedese, giovane, che si chiama Ruben Östlund. È del 2022 e ha vinto un sacco di premi a Cannes. E ha vinto, secondo me, meritatamente. È candidato inoltre a 9 Oscar quest'anno. È un film particolare perché è un film comico, molto comico, con una comicità piuttosto inedita in questi ultimi anni, perché è una comicità paradossale alla Hollywood Party. Per chi l'ha visto, per chi se lo ricorda, il famoso film con Peter Sellers della fine degli anni 60. E è un film che dentro a questa situazione paradossale, una crociera di lusso, di gente di lusso, dentro alla quale ci sono gli schiavi della gente di lusso, vira poi su tutto un altro tipo di trama. Ecco, non vi anticipo nulla perché non vi voglio rovinare la sorpresa, però penso che vi lascerà stupiti. Comunque, se volete anche scrivermi qualche vostra impressione, ecco, potete sempre usare il nostro indirizzo mail radiocontado@insiberia.net. Sempre dello stesso regista, vi segnalo anche Forza Maggiore e The Square, gli altri due lavori precedenti che sempre insistono sulle stesse tematiche, ma sono un po' più drammatici, ambientati in tutt'altri contesti, però assai stimolanti, direi, assai stimolanti. Altro consiglio scelto per voi è un documentario che si chiama La Pantera delle Nevi. La Pantera delle Nevi racconta il viaggio di due fotografi che fanno fanno un documentario su questo animale che vive nell'altopiano del Tibet. E Mounier e Tesson sono i due fotografi. E i due fotografi francesi che hanno un approccio con questo ambiente molto filosofico. È veramente un documentario molto delicato che ha al suo interno delle immagini superiori, perché bellissime, e che oltre a questo aspetto comunque legato al mondo animale, che non ha mai visto l'uomo, perché queste sono terre desolate, lontanissime, in cui nessuno ha mai messo piede, e quindi l'animale si rapporta all'uomo come un elemento della natura, cosa da cui purtroppo l'essere umano si è allontanato. Ciò che rende ancor più interessante questo e suggestivo questo documentario è il fatto che c'è anche la colonna sonora curata da Nick Cave, e questo crea un'atmosfera che comunque diventa magica. Ed è sulle note dell'ottavo poeta maledetto Nick Cave che vi saluto, vi auguro un buon proseguimento, buona visione, e vi ribadisco che potete mandarmi indicazioni e segnalazioni a radiocontado@insiberia.net e che ci risentiremo presto. Baci! Scusate, io voglio sapere da Pam chi sono gli altri 7 poeti maledetti. detto Nick Cave è l'ottavo. Prossima rubrica pretendo di conoscerne uno a uno, perché questa mi manca. Ma noi glielo chiederemo alla nostra spumeggiante Pam, che ringraziamo per questo contributo prezioso, e speriamo che riesca a spararsi film e documentari da qui all'infinito e aggiornarci con le sue rubriche. Sì, sì, sì. Ma passiamo a cose ben più importanti. Oh, ci scrivono: vogliamo le dirette col megafono sul furgoncino cassonato. Auguri Beppe. Grazie Beppe. Beppe è un nostro fan accanitissimo, secolare. Ci io vorrei risolvere un equivoco. Penso che sia stato il nostro reverendo a... Dai, ma non spoilerare, così facciamo no, finta a scrivere e ad aver fatto gli auguri a Beppe, che oggi compie gli anni, insieme a un altro nostro carissimo amico. Abbiamo la dama con una faccia veramente basita. No, ho capito ora. Auguri Beppe, perché dobbiamo fare gli auguri a Matte, perché io lo chiamo Matte, non Beppe. Esatto. E quindi, oltre agli auguri a Matte, auguri Matte, che Beppe! Che fa quanti anni? Siamo arrivati ai sacri 40, ragazzi. E ne abbiamo un altro, però anche più giovane. Una voce nota, notissima, di Radio Contado. Di quante? Tre stagioni fa? Della primissima stagione. Della primissima. Uno dei nostri mentori. Il grande Mulo. Auguri! Auguri Mulo! E finiti gli auguri, niente, prima di salutarvi, giusto, volevo ricordare che oltre appunto al genuino clandestino a Bologna ci sono sempre tutti i nostri mercati, ma c'è anche un corso di erboristeria applicata del laboratorio Anemone, 8 incontri teorici e pratici tutti i martedì dalle 18.45 alle 20.45, dall'11 aprile presso il circolo La Loggetta, via Aretina 301. Per informazioni anemone@autoproduzioni.net. Accorrete numerosi. A proposito di mercati, che ci sono sempre, ricordiamo che il mercato di Val di Sieve in transizione si è spostato da Piazza Washington a Mondorose, il vivaio lungo la strada alle 10. Grande Anna, ricordiamo che quello in Piazza Tasso è sempre il venerdì, dalle 3:30 in poi in Piazza Tasso, quella a Gavinana è sempre in Piazza Elia della Costa. Il lunedì dalle 3:30, e purtroppo c'è un mercato che ci viene a mancare, che è quello dell'Isolotto, che ha deciso di chiudere i battenti definitivamente per problemi logistici e di poco. Asciugati le lacrime, Palmiro. E cercheremo altre piazze, cerchiamo nuovi produttori, quindi chiunque sia interessato ci scriva. E con questo è giunto il momento dei saluti. Si dai buona? Sì, quindi ringraziamo tutte e tutti. Grazie. E mi raccomando, ricordatevi che a questo punto ci risentiamo tra due settimane e non più tra un mese. Perché siamo tornati a regime. Quindi grazie a tutte. Quindi esattamente mercoledì 19. Doppietta. Ci vediamo alla puntata 138. Con questo si chiude. Ciao a tutto e a Titti. Ciao Titti. Forse è la mia natura, anzi penso vivamente che sia...